Vorrei fare un'ulteriore precisazione dopo aver visto questo filmato, che è altrettanto importante. Praticamente Israele è una punta di diamante anche nelle tecnologie di guerra, no? Cioè praticamente tutte le tecnologie che riescono a colpire a distanza con i droni, da remoto e compagnia cantando, sono state studiate, applicate, continuamente messe in atto in Israele. A parte il fatto del tutto il corollario delle vittime collaterali a cui non si dà nessuna importanza, che loro non prendono neanche in considerazione, però il problema, mi è venuta in mente una cosa molto importante, che adesso si tende a pensare alla guerra come qualcosa di distante, no? Che si farà a distanza, che si farà toccando con un click uno schermo, che si farà da remoto. Ricordiamoci sempre però che questo tipo di tecnologie, tutte le tecnologie, sono usate da umani. Cioè, chi fa click è una persona, chi decide le cose è una persona, chi prende, fa le scelte politiche sono persone e queste persone, ricordiamocelo sempre, hanno un nome e un cognome. Passo la parola a Giulio, che praticamente ci farà un quadro della situazione sulla Smart City, la città dei 15 minuti, sulla sperimentazione di queste tecnologie, di questa messa in atto in Italia, nelle varie città. Intanto aggiungo una cosa rispetto a Israele, che avevamo detto l'altra volta, non l'abbiamo ridetta, è il sistema di intelligenza artificiale che è stato impiegato per scegliere gli obiettivi da colpire a Gaza, che appunto, come dice Elisabetta, alla fine è sempre un essere umano quello che delibera, insomma, che dà il via. Però appoggiandosi a questi strumenti di potenziamento delle decisioni che dovrebbero perfezionare effettivamente anche gli effetti collaterali, in realtà è semplicemente una ipervelocizzazione e moltiplicazione esponenziale degli obiettivi, in una logica apparentemente aziendalista, per cui bisogna produrre obiettivi, risultati, target, il più velocemente possibile. Ecco, queste tecnologie di Israele, alcune diciamo che riguardano più le applicazioni di Smart City, vengono utilizzate anche nelle prime sperimentazioni che si stanno compiendo in Italia, soprattutto quelle che hanno a che fare con il controllo sociale, non solo perché alcune riguardano anche la questione dell'acqua, sulla quale Israele è molto avanzata, perché appunto lì è sostanzialmente un deserto e hanno bisogno di implementare il più possibile l'efficientamento della distribuzione idrica, soprattutto per l'agricoltura, e tutta una serie di altre tecnologie digitali 4.0 per la produzione agroalimentare. Ora, sì, soprattutto per il controllo sociale, perché? Perché la visione che sta dietro questa Smart City è quella di riuscire in qualche modo a contenere i disordini sociali e i disordini anche ambientali che questo sistema sta producendo per riuscire a riprodursi e a conservarsi più o meno tale e quale nel suo ordine gerarchico e nelle posizioni di potere. Quindi questi modelli vengono sostanzialmente applicati con una previsione di quello che potrà essere lo sviluppo futuro dell'evoluzione socio-economica e ambientale, e quindi quello che prevedono è che ci saranno effettivamente molte possibilità di disordini sociali, soprattutto nelle periferie iperpopolate delle grandi metropoli occidentali, ma non solo occidentali, in un quadro di tensioni geopolitiche crescenti, per cui comunque il blocco occidentale sta perdendo progressivamente presa rispetto ad altri nuovi attori emergenti che si coalizzano più o meno a seconda degli interessi. E quindi il clima di guerra globale spezzettata, a strattoni, insomma, emergenze ricorrenti, sempre più frequenti, e di devastazioni ambientali, che tutto l'estrattivismo che finanziare la guerra e finanziare questa ipotetica transizione energetica, industriale, ecologica che ci vogliono vendere. E necessita, perché insomma la riproposizione più o meno del modello di assetti di potere ha bisogno di espansione anche dal punto di vista energetico, di nuove fonti, di integrare nuove fonti energetiche. Questo produce ulteriori devastazioni in giro per il mondo, estrazioni minerarie, eccetera, eccetera, agricolture sempre più intensive, digitalizzate, meccanizzate, biotecnologizzate. Le devastazioni ambientali provocheranno sicuramente un aumento esasperato delle migrazioni e delle fasce più povere delle popolazioni locali, che dovranno per forza spostarsi nelle periferie delle grandi città metropolitane occidentali. Insomma, la previsione è quella di cercare di contenere il più possibile il caos sistemico che questo sistema sta producendo progressivamente. E perciò alcune, diciamo, elite internazionali, alcuni organismi parapubblici, ma anche quelli pubblici, però soprattutto, diciamo, la spinta dai grossi conglomerati finanziari privati, riuniti nel World Economic Forum, nelle agenzie, diciamo, specifiche dell'ONU, che producono questi documenti con l'agenda 2030, apparentemente molto impostata al bene comune, alla sostenibilità, al green, all'inclusività sociale, eccetera, eccetera. In realtà, diciamo, i paradigmi di riferimento che ci stanno dietro sono sempre quelli della crescita esponenziale, dell'aprire nuovi mercati il più possibile, sia di nicchia che comunque anche grazie al controllo di enormi mole di dati che queste tecnologie e queste infrastrutture della Smart City producono. E quindi ci sono, insomma, dei partenariati come C40, C40, che la Rockefeller Foundation ha individuato 40 città, diciamo, più adatte alla sperimentazione di questo modello di smart city, tra cui ci sono anche Milano e Roma. E ora, quindi, diciamo, questo è un po' il modello di riferimento per gli amministratori che vogliono in qualche modo conformarsi a un'idea di sviluppo economico incentrato sulla sostenibilità, e per cui cominciano a vedersi le prime sperimentazioni di questo tipo qua anche in Italia. Alcune città sono più avanti di altre, soprattutto città di medio-grandi dimensioni, ma in realtà non solo, perché anche in piccoli borghi della Lombardia e del Veneto ci sono queste prime sperimentazioni. Allora, in particolare ci possiamo concentrare su Trento, Milano, Bologna e Venezia, che poi su Roma ci dirà qualcosa di più specifico Elisabetta. Partiamo da Trento, dove sono in sperimentazione alcuni progetti europei con i fondi dei programmi di ricerca Horizon 2020 e con i soldi del PNRR, questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che l'Unione Europea ha sostanzialmente imposto di applicare agli Stati membri con dei finanziamenti che poi comunque sono soldi che comunque vanno restituiti. E su questi grandi programmi sono tutti incentrati cioè una buona componente centrale è la digitalizzazione dei processi di regolazione sociale e di ottimizzazione dei flussi ambientali, delle risorse, quindi la gestione dei rifiuti, dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e tutte le utility A Trento in particolare sono concentrati sull'applicazione di questo e-wallet, che è l'identità digitale che anche a livello europeo è sostanzialmente nella procedura di applicazione, per cui entro la fine di quest'anno dovrebbe vedere la luce a livello europeo la conformazione più o meno definitiva di questa identità digitale, con varie app da scaricare, QR code, eccetera, eccetera, cose che insomma abbiamo cominciato bene a conoscere e possibilmente a evitare. Quindi a Trento si sperimenta questi wallet, che sostanzialmente è una patente del buon cittadino, per cui per avere accesso alle utility, per pagare le bollette, per fare le funzioni amministrative, relazionarsi con il comune di Trento, è necessario, sarà necessario, cioè per il momento è solamente opzionale, ma non tarderà ad essere obbligatorio questo strumento, quindi sostanzialmente di identificazione e di schedatura. E in realtà poi ci sono altri tre progetti molto rilevanti su Trento, finanziati con il fondo Horizon, che sono Marvel, Protector e Pre-Crisis, che sono progetti sostanzialmente incentrati sul controllo sociale, quindi sulla possibile prevenzione del crimine, in particolare Pre-Crisis, e solo quindi l'utilizzo di tutti questi gadget, questa panoplia di oggetti intelligenti, digitalizzati, connessi tramite rete 5G, che raccolgono mole di dati eccezionali, audio, video, e che si possono incrociare anche con il flusso di informazioni, con il monitoraggio dei social network, Twitter e YouTube in particolare, prevede Pre-Crisis. Il progetto Protector è centrato proprio sulle funzioni di pulizia, quindi vede la partecipazione di partenariato di istituti di pulizia, quello centrale e quello del Belgio, e quindi diciamo per ottimizzare i flussi di informazione a livello di pulizia. Il Marvel soprattutto sono queste applicazioni di Internet of Things, lampioni intelligenti, panchine intelligenti, sensori intelligenti che indicano comportamenti non conformi, microfoni ovunque da incrociare con tutto il resto. Applicazione ovviamente dell'intelligenza artificiale per elaborare tutti questa mole enorme di dati, i soggetti economici che stanno dietro questi strumenti sono grandi imprese di tecnologia digitale, un nome per tutti quanti, forse quello più grosso era Atos. Infine, un spin-off della tedesca Siemens, vabbè, la Siemens la conosciamo. Più o meno questo è Trento. Passando su Milano, che è forse la città complessivamente per numero di tipi di applicazioni di smart city, quella forse più all'avanguardia, perché vede diciamo sia partenariati tra pubblico-privati, tra amministrazioni, soprattutto nell'ambito della sanità, quindi c'è l'Istituto Galeazzi insieme a alla Fondazione Triulza, alla Human Technopole Scienze della Vita, al Campus Scientifico dell'Università di Milano. Questo riguarda diciamo sia l'applicazione della città di 15 minuti, adesso spieghiamo un attimo che cos'è, e sia le questioni dell'applicazione della telemedicina, e quindi della la regione Lombardia si fa molto bella di questa sua diciamo ristrutturazione del sistema sanitario regionale, con soprattutto con questi strumenti, diciamo, di, che poi dovrebbero supplire in realtà le carenze dell'organico degli operatori sanitari e dei medici in applicazione di telemedicina, per cui ci sono valutazioni fatte a distanza, diagnosi fatte a distanza, prescrizioni fatte a distanza, rapporto tra medico e paziente completamente alterato e deumanizzato. Poi Milano è all'avanguardia anche per quanto riguarda, diciamo, la regolazione dei flussi, delle utenze, del gas, dei fiumi, dell'acqua, con la A2A, che è il colosso della multi-utility milanese, che gestisce un po' tutti i settori infrastrutturali. Quindi la digitalizzazione dei flussi, sapere in tempo reale quello che sono i consumi elettrici piuttosto che delle altre utenze, del gas, eccetera, dell'acqua, e anche eventualmente poter operare un controllo e un sanzionamento in casi non conformi. Poi Milano ha sicuramente, diciamo, l'avanguardia per quanto riguarda la gestione del traffico veicolare, della mobilità, con l'applicazione sia delle ZTL nelle aree centrali che nell'applicazione di una tassa di accesso all'area, diciamo, più centrale, per cui si paga un ticket annuale per accedere con la macchina, o altrimenti, se non si è conformi con la macchina, si ha un plafond di ingressi piuttosto che di chilometri disponibili all'anno per poter accedere nelle aree limitate. E questo è un po' il modello che anche a Roma si vuole mettere in pratica, con i tempi e con, diciamo, le problematiche invece più specifiche a Roma. Sì, poi la città dei 15 minuti, ecco, anche Milano è all'avanguardia anche per quanto riguarda questa utopia urbanistica ultramodernista della città dei 15 minuti, per cui sostanzialmente l'idea è che tutti i servizi dovrebbero essere a una distanza raggiungibile, a una distanza a piedi o in bicicletta di massimo 15 minuti. Questo così, in modo abbastanza asettico, senza stare a considerare più di tanto le specificità dei quartieri, delle zone della città. In realtà quello che pensiamo è che questa applicazione potrà essere, diciamo, messa in opera soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di controllo sociale, di videosorveglianza, nelle zone più periferiche, dove effettivamente potrebbe rivelarsi necessario un controllo dei possibili disordini, mentre, diciamo, nelle zone più centrali, che sono più destinate al consumo, alle funzioni, diciamo, produttive, finanziarizzate e al turismo di massa, questa applicazione in realtà vede più che altro probabilmente sul lato commerciale, sul lato dello sfruttamento a fini, diciamo, di profilazione, di categorizzazione, di classificazione delle desiderabilità sociali, insomma, per poter riuscire a ottimizzare anche la produzione di merci e di servizi così personalizzata il più possibile. Sì, a Milano la stanno sperimentando a Loreto, nel quartiere di Loreto, con la partecipazione anche dei comitati civici e delle associazioni di quartiere, dell'associazionismo, diciamo, più popolare. Questo, diciamo, è un bel problema sicuramente, perché, diciamo, mancano probabilmente dei punti di visione complessiva di questa operazione da basso, e per quello che ne sappiamo al momento la sperimentazione a Loreto è ferma, no, soprattutto per questioni burocratico, diciamo, amministrative tra dipartimenti vari del Comune di Milano. Possiamo passare, credo, a Venezia, che è un altro esempio eclatante dell'applicazione Smart City, in particolare per quanto riguarda questo ticket, questo contributo d'accesso, che sulla base, diciamo, della retorica che vede la città, insomma, dover risolvere, la situazione deve risolvere questo problema dell'overtourism, dell'eccesso di turismo e dei suoi effetti deleteri sulla città. Diciamo, questa è lo specchietto per allodole dietro la quale si nasconde l'amministrazione per applicare questo strumento, che è in parte, insomma, uno strumento economico di cassa, ma diciamo, in parte minore, in parte, in buona parte, è, diciamo, l'appaltare una serie di servizi a società, amiche di amici, per questi servizi in parte anche di videosorveglianza e di controllo poi di questo contributo d'accesso, per cui appunto sono stati ingaggiati varie società di security per controllare gli accessi al centro storico di Venezia. Sono state individuate 3 zone, diciamo, franche dalle quali si può accedere a Venezia, dalle quali avvengono i controlli. Ora c'è da dire che tutta una serie di esenzioni enorme per l'adempimento di questo contributo d'accesso, che è in via sperimentale per 29 giorni. Si è concluso il 13 di luglio la sperimentazione, su 29 giorni che hanno individuato come, diciamo, quelli più sensibili del maggiore afflusso di turismo. Quindi, diciamo, diciamo, l'introito economico dagli appalti sulla videosorveglianza, sulla security, e poi, diciamo, questa enorme mole di dati che viene raccolta per profilare, per classificare, per poter elaborare, anche tramite strumenti ovviamente di intelligenza artificiale, le soluzioni commerciali da offrire, i servizi più possibile, personalizzati, eccetera, eccetera. C'è da dire che questo contributo d'accesso, per quanto riguarda i controlli, sono stati molto blandi, non sono state elevate sanzioni a nessuno, neanche a chi ha cercato in tutti i modi di farsi sanzionare, per avere anche poi un appiglio legale per poter contestare in sede giuridica l'applicazione di questi strumenti. C'è da dire che è stato correlato della messa in opera di strumenti molto raffinati di videosorveglianza intelligente, che riconoscono le tipologie di comportamenti, quindi dal video, sono telecamere ad alta definizione, e tutto questo materiale finisce nella Smart Control Room, che è questa invenzione. Qui c'è la mostra della compagna di Venezia che spiega tutto questo che vi sto dicendo, che sto sintetizzando. Lo spiega piuttosto bene nel dettaglio, e i soggetti economici che sono coinvolti nella strutturazione di questi strumenti, in particolare la Smart Control Room dell'isola artificiale del Tronchetto, è una serie gigantesca di muri di schermi, tutte le telecamere di videosorveglianza sparse in giro per la città, che può svolgere, diciamo, le funzioni sia, diciamo, più di sicurezza, emergenza sanitaria, cose, diciamo, più, diciamo, di ordine, così, insomma, anche potenzialmente forse utili, fino a livelli di appunto polizieschi, di indagine, per cui possono accedere solamente le forze di polizia agli strumenti, a visionare il registrato di queste, anche in tempo reale, di queste telecamere, e fare le loro valutazioni del caso. Passiamo poi a Bologna, che è un'altra di quelle città piuttosto all'avanguardia, in particolare per quanto riguarda gli strumenti informatici. C'è questo mega computer, super computer Leonardo, nel distretto tecnologico di Bologna, che dovrebbe essere il più potente per capacità computazionale a livello europeo. Il risultato di un'alleanza siglata nel 2017 fra vari paesi europei, oggi allargata a 32 membri. Supercalcolo, 8 miliardi di investimenti, 140. No, vabbè, questi diciamo, sono dati generali. Ci sono finanziamenti del PNRR e di Horizon 2020 dietro questo sistema, installato al Tecnopolo e al Cineca di Bologna, che è appunto diciamo, il centro informatico universitario. Vi risparmio tutti i dati su distribuzione dei finanziamenti. C'è la Fondazione Bruno Kessler dietro, che è molto importante di Trento, sia anche nelle altre applicazioni di cui stavamo parlando prima. Una diciamo, cosa peculiare di Bologna è questa del gemello digitale, che è sostanzialmente la replica digitalizzata in 3D di tutta la città di Bologna, quindi dell'urbanistica, della conformazione dell'assetto morfologico della città, che dovrebbe aiutare in parte nello sviluppo urbanistico, nella programmazione urbanistica e nel controllo sociale. Bologna poi diciamo, è assurda le cronache nazionali per l'applicazione della zona 30, quindi della mobilità a velocità ridotta in alcune zone, che è stata contestatissima e che viene applicata insieme insomma, ad altri strumenti repressivi per individuare le violazioni del codice della strada. E poi c'è la questione della tessera a punti del cittadino, che diciamo, è anche ancora in stato embrionale a Bologna, in stato più avanzato in provincia di Parma a Fidenza, dove la regolazione dell'accesso alle case popolari avviene tramite appunto un punteggio in base a comportamenti piuttosto opinabili, insomma, cioè a criteri piuttosto opinabili di virtuosità del buon cittadino che può o no, insomma, accedere a seconda del proprio punteggio ai servizi come appunto l'erogazione della casa popolare. In realtà questo è in applicazione anche a Roma, cioè diciamo, è stato proposto e in qualche modo istruita questa cosa inizialmente anche a Roma e all'interno del piano per la Smart City di Roma, vedremo come procederà. Questo ovviamente poi ha a che fare anche con la questione della relazione pubblica tra cittadini, della denuncia. Abbiamo visto durante il periodo Covid essere diciamo, esploso anche no? Con questo appoggio sulla retorica del bene comune collettivo, che poi non si capisce mai chi lo decide sul bene comune e da dove viene calato. Sì, penso, insieme alla zona 30, i telelaser, il sistema TrueSpeed, TrueCam, con questa altissima risoluzione per individuare i comportamenti all'interno delle automobili. E questa è Bologna, poi che dire altro, vi potrei dire altro su Firenze, che è all'avanguardia sulla questione dell'impiego dei droni per il controllo della polizia, diciamo, della sicurezza sociale. Su Firenze mi verrebbe da dire soprattutto che c'è la questione dei mondeggi, che è questa tenuta della città metropolitana, che è stata diciamo, abbandonata dalla città metropolitana, è proprio prossima, a 10 minuti dal centro di Firenze, è stata occupata anni fa dai movimenti, così è riconducibile al movimento di genere clandestino, quindi dell'agroecologia dal basso, di piccola scala e contadina, quindi dell'agricoltura contadina, per sviluppare progetti di autonomia, di autosufficienza in contrasto con l'amministrazione pubblica. E ora, dopo lunghe peripezie, questa esperienza è stata in qualche modo ricondotta dentro gli strumenti di amministrazione pubblica e i finanziamenti europei che, per tornare sull'oggetto della nostra conversazione, appunto sono incentrati sulle tecnologie digitali anche nell'applicazione alla produzione agroalimentare. E per cui si sta assistendo sostanzialmente dal passaggio da scuole contadine agroecologiche a applicazione di agricoltura 4.0, droni, efficientamento della gestione delle risorse nella produzione agroalimentare, quindi ancora maggior impatto sul lavoro in agricoltura, sui saperi e sulle conoscenze, diciamo, conviviali da contadino a contadino, e quindi a una ulteriore espropriazione della saggezza popolare. E poi, insomma, ci sarebbe da dire altro anche sulle piccole città, Codogno, piuttosto che Caosle nel Veneto, insomma, questi strumenti di irreggimentamento e disciplinamento sociale vengono comunque sperimentati a varie scale, anche per così avere una possibilità di confrontare le dimensioni, le riuscite in dimensioni diverse. Insomma, questo è anche un altro elemento che torna utile a chi vuole mettere in moto questi processi. Boh, non credo di essermi dimenticato cose enormi, insomma. Grazie. Dunque, volevo fare i complimenti, è un lavoro enorme questo qua. Avete proprio perso un sacco di Ci tempo, siamo dati una complimenti mano. proprio. Adesso lo leggerò piano piano, ma lo No, beh, veramente. c'è da dire che comunque, grazie al cielo, ci sono anche altri compagni e compagne che si stanno occupando di questo, altre anche assemblee che si occupavano del Green Pass precedentemente. O Comunque siamo in comunque siamo in contatto. contatto a Bologna, Venezia, Trento. E quindi, insomma, comunque c'è un'attenzione, c'è un osservatorio Smart City di ricercatori indipendenti che si occupano, diciamo, di indagare l'applicazione di questi strumenti. E crediamo, insomma, che effettivamente sia un po' questa la frontiera attualmente della repressione di classe attuata soprattutto in ambito metropolitano, ma non solo in ambito metropolitano, insomma. Io infatti, invece di parlare dello specifico di Roma, perché tardi, siamo stanchi e quindi andrebbe molto per le lunghe, perché su Roma c'è un lavoro particolare, vorrei porre l'attenzione su un paio di questioni politiche. Voglio dire, riportare al discorso politico quello che è stato detto finora. Tutte le volte, noi abbiamo intitolato l'appello Nostro lo spazio, nostro il tempo, giù le mani dalla nostra vita. Perché? Perché tutte le volte che il capitalismo ha deciso di impostare il sociale e la società su uso e consumo, ha lavorato sullo spazio e sul tempo, a cominciare dall'enclosure, quando ha chiuso gli spazi comuni e ha costretto la gente al lavoro salariato, a quando poi ha fatto un altro salto di qualità e ha fatto irreggimentato il tempo della fabbrica, della scuola, del lavoro, del tempo libero. Noi lavoriamo dalle 7 alle 5, dalle 7 alle 2, andiamo in vacanza quando viene detto, lavoriamo a scuola quando viene detto. Una non si accorge più di questo tipo di irreggimentazione in funzione del lavoro, del nostro tempo e del nostro spazio catalogato in questo modo, perché ci siamo dentro. Adesso che cosa succede? Che il capitale ha impostato un salto qualitativo importante, un cambiamento della società dalle fondamenta. Noi non possiamo prescindere da questo quando parliamo di qualsiasi cosa. Voglio dire, tutto quello che abbiamo detto finora fa parte di un discorso di ricerca che abbiamo fatto su dati reali, su impostazioni reali, su fatti che stanno avvenendo e che ci stanno propinando giorno per giorno. Però noi dobbiamo riuscire a non perdere mai di vista che questo è un progetto, non è un problema di, cioè il problema della chiusura del centro esiste, il problema della chiusura della fascia verde esiste, però tutto questo fa parte di una impostazione globale che vogliono farci passare un pezzettino qua, un pezzettino là, come rana bollita, cioè tu non ti accorgi di quello che loro porteranno a sintesi finché non avranno chiuso il cerchio. Allora noi dobbiamo sempre tenere presente questo, e infatti uno dei problemi, trascinando questo discorso nella realtà romana, che cosa sta succedendo? Qui stanno succedendo delle robe che col pretesto del giubileo poi si sono accelerate tantissimo, cioè hanno impostato tutta una rete di 5G eccezionale, sono aperti 1500 cantieri pubblici e più di 5000 privati in funzione del giubileo, che poi non è in funzione del giubileo ma in funzione della rete di questo tipo. Hanno impostato, partirà la ZTL con il controllo, la ZTL fascia verde con il controllo, a parte il fatto che noi abbiamo già da anni la ZTL in centro storico a Trastevere, di qua e di là nessuno ha detto niente più di tanto, perché sono tutti piccoli passi verso un progetto. Allora, che cosa succede? Che Roma ha una situazione particolare da cui noi non possiamo prescindere, a cui dobbiamo stare attentissimi, al di là dello specifico contro cui lottare, che ci troveremo davanti a novembre, questa roba per esempio. Cioè Roma è fatta di quartieri che hanno una forte identità, cioè sia quelli del centro storico, intorno al centro storico, Testaccio, Borgo, la Romadella, ma anche nel centro i Monticiani, i Trasteverini, no? E anche il primo cerchio, gli stessi Parioli, sono quartieri che hanno una forte identità territoriale e popolare, cioè uno si identifica con il quartiere in cui sta, ha questa caratteristica. Perché dico questo? Perché questo è un problema ed è, può essere un grande svantaggio e un grande vantaggio, perché noi ci dobbiamo porre il problema di come muoverci. Allora, sul territorio, in questi quartieri, ci sono le associazioni di quartiere, c'è un associazionismo diffuso, compreso quello antagonista, che sarà il problema vero attraverso cui passerà la città dei 15 minuti, perché tutti i quartieri romani si prestano a diventare città chiuse dei 15 minuti, e attraverso cui verrà trasformata le città dei 15 minuti in smart city. Se noi riuscissimo a coinvolgere l'associazionismo in maniera antagonista, cioè contro questo progetto, forse potremmo avere una chance, ed è un percorso che noi dobbiamo provare assolutamente. Se noi non ci riusciamo, come già ci sono dei segnali d'allarme, per cui non lo so, ci sono le associazioni del Quarticciolo, ci sono le associazioni di Marmelaria, ci sono le associazioni che già lavorano con il comune, perché c'è un laboratorio che si chiama Lab Smart City, in cui il comune sta coinvolgendo tutta una serie di associazioni che si propongono. Se noi non riusciamo a entrare in maniera conflittuale nei quartieri contro questa tendenza al comunitarismo filo istituzionale, sarà un grosso problema. Quindi il nodo è questo. Bene. Posso fare una domanda scandalosa, non capisco. Sì. Però, scusate, a me se io ho l'ufficio dove vado a pagare le tasse, il cinema, il teatro, il mercato sotto casa, in 15 minuti, ma io sono contenta. Ma deve essere una scelta, devi poter andare in un'altra quartiere. Cosa? Deve essere una scelta, lei deve poter andare in un altro quartiere senza poter chiedere un permesso. No, per però, di casa. Secondo me, se tu vuoi andare... Ma c'è già questa cosa, cioè abbiamo i supermercati. Okay. No, allora, il problema... Ho sbagliato io, non parlo più. No, il problema di fondo è l'obbligatorietà o meno, perché già succede nelle scuole da un po' di anni, cioè se loro volessero. Cioè, però tu non puoi, se tu approcci la gente e vai, io lo capisco, cioè io faccio questa domanda, ma lo capisco che sotto c'è un piano, perché se no non lo farebbero. Perché lo potevamo fare, ma però lo fanno lo stesso. Però quando tu vai a parlare con una persona e gli dici ma guarda che vogliono fare questo, questo, e quello ti dice viva magari, perché invece di dovermi fare degli spostamenti di ore c'ho le cose sotto casa. Ma allora devi spiegare e devi far capire effettivamente come funziona, quali sono il retropensiero, però non è facile, perché ti dico guarda che insomma ci siamo capiti, avete capito quello che voglio dire? È l'obbligatorietà che dire, per esempio. Sì, ma di obbligatorietà io non ne ho. E beh, è cominciata con la scuola, come no? Adesso uno se vuole iscrivere il figlio a scuola, lo deve iscrivere nel quartiere. No, io i miei figli li ho mandati al Virginio non stando nel centro storico, adesso non posso più, Ah, vabbè, adesso no. È già cominciata questa cosa. Cioè, se io voglio, abito in Prati e voglio mandare mio figlio al liceo a Virgilio, non lo posso più fare, perché io non sono residente. Cioè, tra l'altro questa cosa è cominciata con il piano del traffico, cioè è cominciata da molto tempo addietro, ma già il piano del traffico di Roma del 2015, che recepiva orientamenti europei sulle città, 15 minuti, smazzite, eccetera, io vi invito a leggere soltanto le pagine introduttive, in cui quindi ci sono le finalità, gli intenti, le ragioni, diciamo, sottese, che sono veramente affascinanti. Una di queste, appunto, come diceva Elisabetta, partiva dall'identità dei quartieri, no? Diceva Roma in realtà non è una metropoli, è fatta di 200 piccole città, noi dobbiamo rafforzare l'identità di questi quartieri facendo una serie, diciamo, invece che anche al di là di potenziare ciò che sta dentro il quartiere, innanzitutto isolandoli uno dall'altro. Tra le misure di potenziamento interne ai singoli quartieri, per esempio, quello che del piano del traffico dicono della mobilità delle donne, lo trovo particolarmente istruttivo, perché visto che statisticamente le donne si muovono intorno a casa, spesso con pacchi, bambini, anziani, nel loro svolgimento del lavoro di cura, quello che prevede il piano del traffico sulla, come misura della città 15 minuti, è di non di potenziare il servizio di trasporto pubblico, ma di accorciare la frequenza delle fermate, così che la donna con i pacchi debba camminare meno sempre intorno a casa, no? Cioè entro i suoi 15 minuti. E anche, altra trovata geniale, di alzare i marciapiedi per agevolare la donna che con la carrozzina deve entrare sull'autobus. Queste sono le misure, però per dire che questo fatto di potenziare l'identità dei quartieri un po' per farli diventare dei ghetti, dove lì ci sono quelle dinamiche e lì devi rimanere, l'esempio della scuola è fondante da questo punto di vista, perché è il momento in cui ci si apre a nuove prospettive e non si può più fare, è un aspetto. Il secondo aspetto è che non c'è niente, cioè dentro a questi 15 minuti, in realtà se noi guardiamo attualmente il nostro territorio, intorno ai 15 minuti dalla propria abitazione troviamo caserme, stazioni di polizia, io personalmente, chiese, farmacie, obiettivi militari sensibili, tipo il centro operativo della NATO, che non hanno intenzione di fare altro, cioè teatri. Ci sono queste cose, cioè non ci sono, non ci sono, come non ci sono, tipo le chiese, allora che cosa devono mettere? La polizia che mi impedisce, cioè io nella mia vita vivo nella mia zona di periferia, ma non perché sono costretta dalle condizioni di vita. Dopodiché però posso prendere la metropolitana e venire qua, io abito a Montesacro. Allora, mi impediranno di fare questo? Non potrò più prendere la metropolitana e venire qui quando mi pare? Dipende, se ma non c'è la macchina, c'è visto. I tempi, se sono lì, sarei controllata. La macchina già un altro paio di maniche, perché diciamo sul traffico all'interno delle città che ci siano delle regole, adesso si tratta di vedere quali naturalmente, però a titolo di principio proprio, bisogna secondo me andare a vedere poi che cosa è nel concreto. Non lo so, mi sembra... Possiamo parlare con magari possiamo parlare con le parole di chi questo l'ha ideato, no? Perché sennò non... perché poi è proprio sostanziale. È il tempo di passare dalla pianificazione urbanistica alla pianificazione della vita urbana. Ciò significa trasformare lo spazio della città ancora altamente meno funzionale e con le sue diverse aree specializzate in una realtà policentrica basata su quattro componenti principali: vicinanza, diversità, densità e ubiquità, per offrire a breve distanza le sei funzioni sociali urbane essenziali: vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere. Dovremmo essere creativi e immaginare, proporre, costruire un altro ritmo di vita, oltre altri modi di, perché non vedo niente, occupare e lo spazio urbano per trasformare l'uso. Perseverare la nostra qualità di vita ci impone di costruire altre relazioni tra due componenti essenziali della vita cittadina, il tempo e lo spazio. Cioè, primo, ti definisco lo spazio. Secondo, ti definisco il tempo e decido per te quali sono le funzioni essenziali, vale a dire vivere, lavorare, fornire, curare, imparare e godere. Dopodiché ti dico anche come devi fare tutto questo e ti dico anche di cosa puoi offrire. È assolutamente comprimente, limitante, per cui certo che se io trovo cioè, questo è un esempio a poca distanza ti dico che fico, ma è un conto è che io decido che quello che per me è lo posso trovare lì e lo posso trovare in un'altra parte. La mia scelta in questo caso non c'è più, perché sì, no, anch'io ho un montesacro, posso venire con la metro qui, è vero, posso metterci di media un'ora e mezza di più, un'oretta di più rispetto a un po' di tempo fa, perché mano a mano, ok, questa cosa diventa sempre più difficoltosa, scoraggiante. Poi magari a un certo punto serve deviare il traffico perché c'è sta X, quello, X quell'altro e spostano tutto senza preavviso. Poi magari a un certo punto, che ne so, cominciano a levare la corrente. Mi raccontava un compagno, per esempio, ieri a Ostia stanotte hanno tolto la scacchiera, la corrente in varie zone, oppure ti ritrovi in situazioni limitanti. Quindi il mio spazio di scelta nel mio tempo libero, perché di scelta nel tempo di lavoro sappiamo bene che non si può parlare di scelta e di tempo di lavoro insieme, perché di fatto non lo è una scelta, non c'è più neanche nel mio tempo libero o nella mia idea di vita. E questo è la mia idea di vita, tra l'altro questa cosa ci si è impegnata, questa cosa qualcuno vuole la pasta, la faccio, quindi sarà arrabbiata, no? Nessuno, sì, lei sì, andare, no? Ok, non la faccio, sicuri? Ci provo, no, volevo solo, volevo solo mettere un punto di riflessione su quello che stiamo dicendo rispetto all'internet privato, che questa cosa della Smart City, poiché prevede l'utilizzo della rete 5G, non è che lascia intatto il quartiere, cioè se nei quartieri stanno devastando, tagliando tutti gli alberi, antropizzando, sì, tutto. Io vivo vicino alla tenuta di Dormarancia, dove anche durante il Covid sono scappata sotto la rete per andare a fare passeggiate quando eravamo rinchiusi. Penso anche altri che abitavano in zona l'hanno fatto. Adesso non si potrà più fare perché tutte le aree verdi vengono tutte recintate, tutte imbrigliate, tutto cementificato, perché tutti devono poter usufruire delle aree verdi. Quindi quello che era un'area naturale è stata spianata col cemento per fare il passaggio, loro dicono, per le carrozzine, perché secondo me anche Simone Disabile deve pure andare a scala all'Everest, cioè questo sarebbe secondo loro l'inclusività. In realtà significa distruggere completamente il territorio naturale, perché e questo stanno facendo sulla zona di Dormarancia, stanno tagliando tutti gli alberi. Qui perché Roma. A Roma, non solo su Dormarancia, Roma, Dormarancia, lo dico perché è un'area naturale che non è un parco Dormarancia. Dormarancia è una delle aree di pascolo, che era ancora a pascolo, ci sono le pecore, è una risacca di campagna romana che ancora è rimasta, è stata sottratta alla speculazione edilizia. Stanno tagliando gli alberi perché 5G non passa con gli alberi, quindi stanno tagliando gli alberi, al posto degli alberi ci stanno mettendo dei vasi di fiori con degli alberelli bassi così, corti così, quindi stanno trasformando la città in un equivalente del videogame, del giochino con cui tu giochi. Cioè, è una realtà è funzionale loro, dove non c'è più nulla di naturale, dove tu non c'è più libertà. No, sembra una cosa sciocca, ma è un senso di vita andare a fare la passeggiata al parco quando mi va e come mi va. A me trovarmi con la rete, con la, come si dice? Videocamere. No, la rete. No, a parte stanno mettendo anche le videocamere. E c'è lo sbarramento. E i cancelli. Cioè, io lo trovo veramente, hanno trasformato in una galera dove fanno fare l'ora d'aria a loro piacimento, se la devi fare. E aggiungo solo una cosa, tre giorni fa è uscito il documento della NATO, dove di fatto c'è una dichiarazione di guerra alla Russia, non so se l'avete letto, quella è una dichiarazione esplicita di guerra alla Russia. Io credo che a settembre-ottobre ne vedremo delle belle, e quindi questa cosa verrà implementata con le telecamere, con il blocco delle strade, eccetera, eccetera, perché il giorno che scoppierà una guerra vera, arriveranno le bombe pure qua, forse la gente a quel punto un dubbio di uscire per strada gli viene, ma sarà troppo tardi probabilmente, perché saranno bello che rinchiuso. E allora chi fa prima? Non lo so. E su sta storia della corrente di cui si fa una fitta, io non lo so se l'hanno fatta loro o se non l'hanno fatta loro, però tutto questo sistema è bellissimo, ma se taglio il filo da corrente, salta. Diciamo di sì e di no, perché questa cosa ce la siamo posta. Me la sto ponendo da me. No, ce la siamo posta, nel senso che in un sistema che è tutto digitalizzato, la risposta sarebbe fermare i flussi digitali che circolano, no? Perché questo ci è venuto in mente tempo fa, quando c'era stato lo sciopero di qua e di là, non so di che, e abbiamo detto, lo sciopero non serve, perché uno va in piazza, perde la giornata di lavoro, gli tolgono i soldi, il flusso digitale del tuo ufficio, del comune, continua imperterrito, tu non hai fatto nessun danno, non perché lo sciopero deve fare danni, che razza di no, non risparmiamo. Allora, il problema di sarebbe, cioè, che a società di un certo tipo si risponde con azioni di disturbo di un certo tipo, quindi bisognerebbe trovare un sistema di fare danni al questo meccanismo di implementazione dati, di uso delle piattaforme, eccetera. Se tu tagli la luce non basta, perché loro hanno i database da remoto, cioè loro hanno un sistema di archiviazione che regge la mancanza di luce, per tanto tempo. Hanno il generatore che si serve. Tecnica, forse qualcuno è competente. Una settimana, 10 giorni fa, è stata installata un'antenna 5G a San Saba. Io non lo sapevo, però è mancata per una settimana intera la corrente delle strade. Le due cose possono avere una correlazione? Perché non... c'è stata, cioè, una settimana senza corrente delle strade è tanto. Non lo sappiamo, è però sappiamo una cosa, che a Roma staccano la corrente continuamente per zone. Sì, ma questa è così, no, la regione ecologica. Forse le ecologiche. Però quando l'intero quartiere si ribella, ci sono state fatte delle manifestazioni pure per contro la resta da montata su una palazzina privata che ha perché pagano 24.000 euro. Ecco, quindi capito così. Però quando un'intera comunità protesta e reclama per la disattivazione della corrente, è possibile che tutto a un tratto non ci dicono niente. L'estate scorsa saltava perché non c'è. È la parte tecnica, le centraline si surriscaldavano, i cavi non riuscivano e quindi venivano automaticamente le centraline che abbiamo in giro per la strada. E ci mettono una settimana a riparare i costi. Mi è capitato, però gli impianti elettrici di Roma sono quello e calcolo, mi è successo due volte, la seconda volta... Piazza Vittorio hanno telefonato un altro condominio, mi hanno detto che stanno ancora intervenendo sui guasti del giorno prima. Quando arrivo, chiaro, sono un po' lontano, sto passando molto, quindi grazie per il pubblico. Ovviamente, ecco, se ci fosse una gira più in alto, noi meditiamo anche sul da fare. Ma il da farsi, anche qua, Diaco, che non ti sei sentito. Una bella razza di onda e raggiungere di più energia. Io non lo so, ma il da farsi, il 5G. Potrebbe essere questa antenna che ha bruciato. Indipendentemente da noi, che non si faccia più bisogno. Ancora possiamo cambiare le cose, ma lo stato di fatto, considerando che la percentuale è molto minore, le persone che hanno fatto le azioni ci credono più, non credo più che la gente può fare qualcosa. Ma perché la quello è il problema, secondo me, non sono siamo noi. Allora, mi sembra che da novembre a Roma non potranno più circolare le macchine Euro 4 a benzina, Euro 4 diesel. Allora, esatto. Io dico una cosa, ci stanno 500.000 macchine nella nuova ZTL in cui non solo non potranno circolare, ma non potranno neanche essere passeggiate. E questo significa per tante persone stare, avere problemi con il lavoro, avere problemi di spostamento, non potranno comprarsi le macchine elettriche perché sono care, le banche non ti danno più fide, non c'hai in cambio delle garanzie spettacolari, vogliono farti comprare una macchina elettrica che è una macchina che ha tantissimi problemi. In teoria, se dovessimo convertire di colpo tu 50% di tutte le macchine elettriche, bisognerebbe fare certe frecce dell'anno come essere elettricista, così enorme, hanno un consumo enorme di elettricità. Ma soprattutto, in base a questo enorme consumo di corrente, c'è un dietro, c'è una tecnologia, nel senso che siccome vogliono con l'intelligenza artificiale e la robotica vogliono sostituire tantissimi posti di lavoro, e i robot vogliono sostituire il lavoro umano, quindi consumano tantissima energia. Per cui già l'energia dagli idrocarburi non basta, e allora stanno devastando la Sardegna. Sappiamo che stanno facendo in Sardegna, ci stanno le rivolte, che stanno, e lì porterà via tanto terreno che è destinato all'uso alimentare, no? Quindi la terra buona, tutto quanto. Quindi regaleranno dal mercato tanti territori in cui si coltiva da mangiare i prodotti alimentari. Cioè la devastazione del territorio, tutto quanto fa capo all'agenda 2030, che è questo qua di avere un'umanità transumana. Poi tanti piccoli segnali già li vediamo, per esempio è passato, può essere una stupidaggine, un decreto per la nuova urbanizzazione, il nuovo modello di urbanizzazione, per cui i soffitti fanno 2,40 m. Cioè io così vado a toccare il soffitto, le micro case. Perché micro case? Perché questo? Vogliamo fare tanti ghetti urbani, mettere lì la gente che non può lavorare perché magari c'ha lavoro dall'altra parte della capitale, non c'è soldi, ma noi a piedi, con l'autobus e bicicletta. Dobbiamo avere tutte le reddito universali, quello là che non lavoriamo ci danno questa piccola reddito universale, che ci servirà? Solo per mangiare e bere. Cioè stiamo passando proprio alla ghettizzazione dell'umanità, al super controllo dell'umanità. È quello. Allora c'è un bel questa è una battuta, però c'è un bel libro. Non si può fare pubblicità all'autore, però. No. Cuor di gallina. Ah, cosa? Un libretto che non c'entra niente con questo, però un libretto di una sociologa che si chiama, sentito, La cuor di gallina, e racconta la storia delle galline, di come l'animale selvatico delle foreste orientali sono finite nei lager degli allevamenti. Vogliamo finire così anche perché questa, la strada è questa, La strada è assolutamente la stessa. Ci metteranno queste gabbie, ogni tanto prendono una, le tirano il collo, gli altri non interessa niente, continuano a razionare. Però il problema vero è che la gente non si ribella, e noi siamo molti di più, no? Perché succede questo perché è per quello che secondo me è vero che uno deve dire le macchine, le nuove macchine eccetera eccetera, però il problema è veramente politico. Cioè tu ti vuoi far chiudere in un ghetto o no? Il problema è tutto qui. Sei disposto a vivere, come dicono loro, in un ghetto oppure no? Al di là di tutto, no, di questo qua. Esatto, però la risposta deve essere cioè che il 90% deve rispondere sì. Nonostante il 10%, c'ha la forza di rompere questa storia. Questo è perché lui che ci continua a dire perché la gente si ribella, non si ribella, basta. Perché ha accettato di vivere da me, da gallina. Allora vorrei affiancarmi a Paola e allo stile di Paola, perché secondo me è molto intelligente come approccio. Sì, cioè noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo uno sguardo e gli altri ne hanno un altro. E il limite è sottilissimo fra lo sguardo attento, diffidente e preoccupato e previdente dallo sguardo che da fuori si veniva a un punto di vista, odio, paranoico, cioè dobbiamo stare molto attenti a ciò che noi vediamo, perché anche per poterci riuscire a portare avanti questi progetti, non è che sono tutti consapevoli di quello, proprio per come dicevi tu, delle piccole cose, piccole dosi e piccoli gesti sparsi che poi sono piccole tesserine che compongono poi il quadro finale, il progetto finale. È chiaro che tutti gli agenti non sono consapevoli, anzi sono come nel famoso ONG, convinti di fare buone azioni, hanno la loro storia. Ma io vado a casa, senza non sapere. Prossimo appuntamento, ciao. Magari scrivete sul gruppo. Sì. Ciao. Ciao. Sono un piacere. Ciao. Hanno la loro storiella plausibile, ma persino secondo me, anche politici e anche persone, cioè devono essere per forza persone, devono esserci persone che con quanta più passione ci mettono, tanto più perché sono convinte con la pena di fare altro da sul progetto. Perché però il problema è chi fa politica nel quartiere, vuol dire non ci può essere malafede in una struttura che fa politica da anni in un quartiere. Ci può essere, non ci può essere buona fede, ci può essere buona fede nella gente del quartiere che dice sì, ma non in una struttura. Però magari non sono consapevoli del progetto finale. Non c'è progetto finale. No, no, del progetto finale. Sì, ma voglio dire, cioè quella piccola azione non fa. E invece noi e che fai politica? Cioè, rischiamo di fare paura delle Cassandre, cioè di non. Allora, qui c'è un problema serio, serissimo, di una sinistra antagonista che si è venduta per soldi. Punto. D'accordissimo. Non è antagonista, è integrale. Ufficialmente è antagonista. Ufficialmente. Ma è composta anche di persone che io assolutamente condanno, però che sono convinte, sono talmente, totalmente inconsapevoli del danno che producono reale, perché magari dice bisogna rafforzare, stiamo facendo il nostro meglio, stanno facendo del loro meglio per rafforzare i mezzi pubblici, perché cambiano il parco, mezzi, perché fanno gli scavi della metro, perché ci si muoverà molto meglio. Tu che gli dici? Che invece ce lo renderanno di fatto, ce lo renderanno più difficile. Secondo me il disagio è più profondo, nel senso che è proprio una dissociazione cognitiva di molte persone. Certo. Da questo punto di vista il Covid è stato COVID. Una roba seria, nel senso che l'opposizione al Green Pass e al vaccino è stata anche più larga di quello che abbiano diciamo, fatto sapere, e infatti diciamo pure criminalizzato, perché insomma c'era un'opposizione reale, no? Però nel tutto il resto della popolazione l'abitudine la Stefania Consigliere che lo chiama gli spazi del terrore, nel senso che quando quello che è successo con i lager, ma anche dentro le prigioni dove si tortura, come si fa a tirare su una persona che riesce a torturarne un'altra, abituandolo a seguire delle regole assurde, completamente illogiche, che lui non deve mettere in questione, per cui ci sono le ricerche sui torturatori greci, sui corpi speciali durante i colonnelli, che ti dicevano che devi pulire la stanza con, avevi una scopa e uno spazzolino, ma tu dovevi pulire la stanza con lo spazzolino mettendoci 4 giorni invece che con la scopa. Dopo qualche mese, basta anche poco di questo tipo di addestramento, tu diventi così disumanizzato, perché hai perso il contatto con la ragione, che riesci a fare anche queste cose. E lo spazio del terrore è quello che abbiamo vissuto, perché non si capiva perché tu potevi prendere il regionale con il Green Pass, ma con veloce invece col vaccino, e il Green Pass rafforzato per la zona 1. Il cappuccino seduto. Ci hanno preso del culo seriamente. Sì, ma pensato che l'aria potrebbe essere inquinata, l'acqua inquinata, i cibi inquinati, ci buttano della roba, per esempio, hanno trovato alte concentrazioni di bario e alluminio con le scie chimiche, cioè dalla roba che si è depositata sulla macchina. Però, scusate, l'hanno fatta analizzare. Il bario e l'alluminio ti funziona da bromuro, di calma. Sì, sì, ti rincoglionisco. Potrebbe anche essere un'ipotesi buona, ma hanno trovato altissime. Quando dico che il disagio è più profondo è perché da una parte c'è stato questo grande esperimento, diciamo, su larga scala, che ha preso tutta Europa, di questa abitudine, diciamo, all'assurdo, e l'assurdo non ti circola verso qualcosa di assolutamente incomprensibile. Dall'altra parte la minaccia della guerra, il piano inclinato in cui siamo, è molto molto molto spaventoso. È così spaventoso, visto che ormai dicono che la risposta proporzionata in guerra non è più il non utilizzo delle armi nucleari, ma il non utilizzo tattico, quindi stiamo sdoganando anche la bomba nucleare. È così pesante, è così angosciante, che si attuano anche dei meccanismi che sono un po', come dire, psicologicamente umani, no? Perché ancora siamo, cioè purtroppo No, la non, il fatto che davanti a qualcosa di così grave e grande, insomma, non è proprio facile tenere gli occhi aperti davanti a questo, no? Uno tende invece a dissociarsi e a dire: no, non succederà mai a me la argomentazione di chi non scende in piazza o comunque dice che mi fa più paura in assoluto, sì. È quella che si fonda sulla loro, cioè su una sulla svalutazione, diciamo, di quello che loro riescono a fare, per cui non ci riusciranno mai a mettere tutti questi dispositivi di sorveglianza, perché l'Italia fa schifo, non c'è infrastrutture informatiche decenti, perché siamo dei veri totali, perché lo facciamo, lo mettiamo in funzione e poi troviamo l'inganno, ma perché poi alla fine lo faranno con un occhio sì e con un occhio là. Questo è quello, questa argomentazione è quella che a me mi fa più paura di tutti. Perché invece secondo me è proprio la sottovalutazione, ecco la parola, di quello che non possono. Da un lato c'è, a me, perché te lo dico non perché c'è una risposta, perché ci sono risposte capite, perché questo che tu dici è bellissimo, me lo riscontro pure io nelle persone che frequento. Ma dall'altra parte c'è che quello che faccio non serve a niente, cioè da un lato non ci riusciranno mai, dall'altro il sistema è onnipotente, quindi che tanto che lo fai a fare, perché tanto che te prendi, e anzi quando disgraziatamente c'è un piccolo successo, sembra bene, ma tanto, ma mica perché hai fatto di qualche cosa, perché hanno deciso loro di lasciarti andare. Hanno, che ne so, liberano un ragazzo che sta fermato, è perché hanno deciso loro che gli era più comodo lasciarlo piuttosto che tenerlo. Che può darsi pure in vera, però così te muovi più. Se non ce lo faranno mai, in realtà ce l'hanno fatta, ce l'hanno messo in tasca neanche sulle pareti, ce lo stanno pagando solo. Il microfono è il video che hanno ripreso. Sì, sì, sì. E sul ribellarsi, giustissimo, anche se poi sappiamo che le masse sono abbastanza refrattarie a ribellarsi. E rispetto alla città di lager di 15 minuti, forse converrebbe proporre delle alternative. Oltre alla ribellione di qualcosa di sbagliato, siccome la tecnologia c'è e il processo che va governato, proporre un'alternativa oltre a dire è sbagliato, ribelliamoci, potrebbe essere un modo di tornare persone non piegarsi alla città lager per 15 minuti. Ad esempio, a me piacerebbe moltissimo la collettivizzazione del mezzo di trasporto individuale rendendo la guida autonoma. Col cellulare ti chiami la macchina, ti chiami a posto, ci sale e ti devi portare. Ma perché tu non lo fai? In realtà sarebbe nell'interesse. Però la guida automatizzata magari è comoda, ma essendo governata anche da remoto, a un certo punto chi sta dall'altra parte può decidere di fermare la tua macchina per un motivo che a te ti è sconosciuto, siamo veramente a rari volti. Però attualmente lo spazio urbano è destinato più del 90% alla viabilità e al parcheggio. Un sistema di guida autonoma di auto per lo più una volta che ti chiami, ti vengono a prendere, ti dove devi andare e lì per 80% se decide di coltarsi dove devi andare, cioè, una volta che togli il grande traffico delle auto a guida umana di 5 posti per su per muoverti da solo, per muovere un individuo con 50 cm cubici di motore, per muoverti da solo su una monoposto basta per ruote anche 4. Spariscono tutti i semafori, le corsie asfaltate si riducono improvvisamente a un paio di metri di corsia piuttosto che riempire tutta la strada, non ci sono più le macchine parcheggiate, e sì, se te la fermano, se non ti fanno andare dove devi andare, ci vai a piedi in bicicletta tranquillamente. Però tu sei già dentro la macchina quando ti fermano. Nel caso in cui decidano di fermare la macchina che tu hai preso, tu sei dentro la macchina. La strada ti ferma, no? No, nel senso che con la guida automatizzata tu sei in un impedimento a un centro, a un centralino che può disattivare le funzioni da remoto, è quello che hanno fatto con le bollette del gas e dell'elettricità, per cui poi quel gas è bellissimo perché te le possono staccare da remoto ma non te le possono riattaccare da remoto. Quindi te la staccano da remoto in un attimo, però poi ci metti praticamente 2 settimane per avere l'appuntamento per averla rilasciata, però tutto quello che è controllato da remoto hai il problema che sfugge al tuo solo controllo. Tu la puoi controllare fino a che, nella misura in cui chi sta nella centralina decide che tu la puoi controllare. Quindi io non mi metterei, per esempio, nelle mani di un sistema così automatizzato. Tra l'altro, il monoposto mi sa pure di individualizzazione, diciamo, collettivizzazione. Io ho pensato ai taxi collettivi. Infatti, io pensavo quello che poi, mannaggia, mi dà fastidio così. Durante quel periodaccio che si facevano i passaggi, le cose, sì, di casa di qua, di pasta della, quella era una cosa bella che non ha funzionato. Funzionato poco, purtroppo, perché è difficile coordinarsi. E noi dovremmo combattere proprio questo regolamento. Invece, però, scusate, posso tornare indietro a parte l'automatizzazione, tornare all'occhio di chi sta dall'altra parte. Quando tu mi parlavi della ZTL, abbiamo la ZTL già da anni, quella in centro storico, e poi ce l'hanno allargata. Se tu la vedi con l'occhio logico, e che non fa una piega, l'industria ci ha portato a consumare di più, a comprare più macchine, siamo stati di macchine, che non è bello avere il centro storico libero dal traffico, ma non è vero. Aspetta, dal punto di vista della qualità dell'aria, invece è vero, dal punto di vista della qualità dell'aria. Ma non è vero che è libero dalle macchine. No, certo, perché non si raggiungono mai questi obiettivi, perché le deroghe sono troppe. Essendoci tante deroghe, c'è ancora tanto. Allora, non puoi, ascolta, non puoi fare la città delle idee. Aspetta, non volevo arrivare a questo, volevo dire. No, hai perso il punto di partenza. Della ZTL. Sì. Cioè, non fai una piega se tu pensi che devono togliere il nostro bisogno di avere la macchina. Questa è la prima cosa che vogliono fare, perché la scusa è non la questione dell'ambiente, del consumare, perché fosse così te lo smonti un secondo, no? Togli i privati, togli le navi, le cose, riduci l'inquinamento, fossimo solo noi a inquinare il pianeta. No, loro ti dicono, però la qualità dell'aria, però siccome cittadino ti dice, te lo dico perché parlo con gli ingegneri, quindi ti dicono la qualità dell'aria nell'isolato, nel quartiere migliora tanto se non ci circola tutta quella quantità di mezzi privati a scoppio, a gasolio, a questo. Quando hanno messo la ZTL nel centro storico, hanno detto questo. Allora io ho discusso con i miei colleghi in ufficio e mi hanno detto questo, c'è per l'inquinamento, perché così non circolano qua, non circolano là. Bene, e per la nostra salute. Bene, allora la ZTL, sì, nella ZTL non entra più nessuna macchina istituzionale, solo quelli che con la 500 vengono dalla periferia. Solo quelli che con la 500 vengono dalla periferia, e così sono pochi, ma nessuna macchina istituzionale, compresa la polizia, compresa quelle blu, nessuna, perché inquinano. Quello è fuori, se è per l'inquinamento. No, perché invece è un sistema di classe, nel senso che essere elettriche. No, è un sistema di classe, tu fai la macchina tu in quel posto e non solo io, ma che scherzi. Ci potrà andare solamente chi c'è soldi, chi c'è possibilmente l'ultimo modello se lo mostra qualcosa. Allora, ma questo è un interesse più egoistico, perché siamo proprio nell'era dell'egoismo. Tanto è vero che l'elettrico inquina in termini generali, pagando quattro volte di più anche dell'industria del petrolio, però te la quello stesso che sotto casa tua sei spia meglio. Quando hanno messo questa famosa ZTL, un certo storico, io vengo dalla residenza a via dei Donati, quindi a via dei Donati potevo entrare io tanto di allora in ufficio abbiamo cominciato a fare, dico, ma non si può fare questa cosa, perché fai la città dei ricchi e gli altri fuori. Ah no, per l'inquinamento qua là. Ma non è vero, perché la signora dei padroni viene col taxi e se ne frega altamente che non la fai entrare con la macchina. No, perché ho detto, volete sapere una cosa, Lula? Io ce l'ho permesso e voi no, e andate a fanculo. Scusa, sai, possibile mai che una cosa così basica non ci arrivi, che tu sei fuori e gli altri sono dentro? cioè non lo so io, però è incredibile. E vabbè, significa però che cioè, dobbiamo non lavori su questo, la coscienza di cioè se lo qua viene giù ad ovica così si sveglia. Sì, no, no, io sono io, spero che la vivino e vaffanculo, cioè, ma da un mezzo. Nella prossima volta ragionerei anche invece su una componente su cui non ragioniamo, cioè che sono invece altre organizzazioni politiche di stampo partitico e sindacale, che comunque contro la guerra si danno da fare, che contro cioè che su alcuni piani ci stanno, che sono, hanno meno problema di associazionismo perché lavorano su un altro piano, quindi sono meno compromessi con, non so, compromessi col PD, annessi e connessi in tutto il l'ANCI, il mondo, eccetera, eccetera, che però non stanno anche deliberatamente assumendo questo terreno come il terreno di lotta. Beh, comunque, potrei un po' no. Ma no, sì, no, però sono dei comunisti. No, però la rete dei comunisti, per esempio, ha capito, ma sono una bella forza organizzata dentro a. Oppure anche i sindacalisti sono una guerra, può essere più dei comunisti sono la stessa cosa. Molto. Allora, però ti dico una cosa, che per me è un problema incredibile. Questi non hanno mai elaborato la posizione che hanno preso durante il Covid e il Green Pass. Non l'hanno proprio mai elaborato. Sì, certo. Io adesso, adesso con la Palestina che ha unificato tutto, mi ci vado a c'è gli incroci perché li trovi in piazza. Questi proprio, quando gli ritiri fuori il discorso... Ormai è passato. No, svigolano proprio, scappano, perché quindi c'è proprio un'assenza di elaborazione di quella cosa là. Questo si porta a dire pure la smart city. Questo che purtroppo io non ne vengo, cioè io da questo non ne vengo fuori. Quell'area lì ci stanno energie forti perché vedo soprattutto l'organizzazione giovanile, come li chiamano lì, cambiare rotta, c'è cioè, dei ragazzini, vi frequentate adesso con l'occupazione, ci sono ragazzini insomma belli, svegli, anche proletari. All'interno dell'università mi ci sono fermata a parlare. Ma in realtà stanno molti sì, i primi due anni mi hanno spiegato che oltre due anni non reggono più o meno come era il periodo mio, però adesso è ancora peggio perché prima non voglio vedere. Però c'è questa cosa qua, non è una cosa piccola. Perché non è una cosa di dire, vabbè, ormai passate, grazie. Capito a che punto sta la ristrutturazione capitale.